Flaubert, il tema della stupidità umana, abbiamo detto in tutte le salse possibili. Il tema della stupidità. Questo tema fa credito perfino sul tema della descrizione amorosa. D'altra parte, il romanzo si propone di descrivere proprio la scioccaggine di un certo mondo, e l'amore è un aspetto di questa stupidità. La stupidità tocca quindi in questo romanzo le persone che sono coinvolte nella vicenda amorosa, e quindi gli amanti, eccetera, eccetera, ma anche persone che non sono coinvolte, come il celeberrimo farmacista Omé, di cui abbiamo già lungamente parlato, il teista, eccetera. Come si manifesta in secondo Flaubert la stupidità? Anche di questo abbiamo già fatto cenno. Nel ricorso forsennato e involontario ai luoghi comuni. Lui ha scritto, come ricordate, questo Dictionnaire des idées reçues, che è il modo con cui si traduce in francese l'espressione luogo comune, idée reçue, e anzi la traduzione in francese rende particolarmente il concetto di luogo comune. Che cos'è il luogo comune? È un'idea ricevuta, cioè non un'idea che tu abbia maturato per tuo conto, ma un'idea che tu abbia acquisito da altri, o acquisito dal si dice della gente, dalla chiacchiera complessiva, e quindi distrattamente, sbadatamente abbia fatto tutto. Vi facevo un esempio, ce ne possono trovare naturalmente 100.000 di esempi, ma quello così che ogni tanto si dice, l'esempio che mi veniva in mente, dire che non ci sono più le mezze stagioni, è un tipico luogo comune, cioè non è un'idea tua, è un'idea che hai sentito nell'aria, che tu usi, ma se tutti usassero luoghi comuni, se tutti parlassero con luoghi comuni, noi saremmo soffocati dalla stupidità complessiva che si verrebbe a creare. Quindi lui scrisse questo Dictionnaire des idées reçues, che oggi non ha molto più senso, quasi tutto, perché i luoghi comuni cambiano nel corso del tempo. Quindi ci sono dei luoghi comuni che oggi sono particolarmente fastidiosi, e di cui sono infranciti per esempio i giornali, no? I titoli dei giornali sono particolarmente significativi, e il modo stesso di intitolare, per esempio, prendiamolo, la prima cosa che mi viene in mente, un delitto, vi ricordate il delitto di quella ragazzina Yara che venne uccisa, no? Ecco, inizia a avere un titolo di questo genere, Yara virgola, nuove rivelazioni, che non è italiano, insomma, ma questo è un luogo comune giornalistico, quello di mettere in testa la parola e poi quello che è accaduto. Se voi guardate, tutti i giornali da questo punto di vista hanno cadono nel luogo comune, la televisione ci soffoca di luoghi comuni, e venendo a noi i luoghi comuni sono quelli, gli elementi che servono a Flaubert per farci capire quanto siano sciocchi i personaggi. Veniamo quindi a noi, e veniamo al fatto che, ricorderete, Madame Bovary, passando dalla cittadina in cui il marito aveva lavorato, cioè Tost, alla nuova cittadina che è Yonville, è incinta e quindi aspetta un bambino. Incinta. Che figlio vuole avere? Vuole un maschio o una femmina? L'elemento su cui volevo convogliare, per così dire, la vostra attenzione è questo. Tutti i personaggi della Bovary obbediscono a questa tecnica descrittiva, cioè sono come maschere della commedia dell'arte, ve l'ho detto più volte, ve lo ripeto perché è ripetita Hubert, nel senso che fanno la loro parte fino in fondo, no? Allora, noi vedremo l'amante l'amante roso che è Rodolfo, e tutto quello che fa è nel segno della rozzezza. L'amante svenevole vigliacco che è Leon fa esattamente tutto in questo segno. Charles non può altro che essere pedestre. Ricorderete, perché sono frasi poi memorabili, come ha definito poco fa, l'altra volta lo vedevamo, il rapporto con Charles. La conversazione avec Charles, vi ricorderete, était plate come un trottoir, era piatta come un marciapiede. È per caso Emma una protofemminista? Ma naturalmente no, è una donnetta romantica che, diciamo così, delle due tendenze correnti del più corrivo romanticismo, cioè quello piagnucoloso e quello urlante tempestoso, personalmente sceglie il secondo. Quindi non tanto le lacrime quanto la furia della passione che si esibisce dell'andare contro le regole, eccetera eccetera. E ricorderete quella notazione che abbiamo fatto sui due romantici, che sono naturalmente presi, il romanticismo preso di mira dal realista Flaubert, che Leon ama il pianto dei poeti, ricorderete, mentre è l'impulso della prosa, esatto. Quindi, non essendo una protofemminista e ritenendosi una femminella esposta alle violenze del desiderio, una femminella esposta alle violenze del desiderio, lei vorrebbe un maschio. Guardiamo questo passo, che è il capitoletto 23, e che noi troviamo dopo il capitolo 3, se girate la pagina, il capoverso è El souhaité un fils, il souhaité fort et bravo. Trovato? No. Dopo il capitolo 3, girate la pagina, 146, El souhaité un fils, il souhaité fort et bravo. Lei si augurava un figlio maschio, sarebbe stato forte e bruno, si sarebbe chiamato George, e quell'idea di avere per figlio un maschio era come la rivincita. Siamo? Non mi troverete. Che c'è che lo fa? Perché i libri non sono tutti uguali, quindi la pagina è trovata adesso. Quale c'hai? I libri sono uguali, però è uguale il fatto che c'è un terzo capitolo. Basso cosa? Trovato. Non ho capito niente. Avete trovato? Credo dicesse quarto, no? Allora, lei si augurava un figlio, sarebbe stato forte, bruno, si sarebbe chiamato George, e quest'idea di avere per figlio un maschio era come la rivincita in speranza di tutte le sue impotenze passate. Un uomo almeno è libero, può percorrere le passioni e i paesi, oltrepassare gli ostacoli, mordere le felicità più lontane. Ma una donna è impedita continuamente, inerte e flessibile al tempo stesso, ha contro di sé le mollezze della carne con la come dipendenza della legge. La sua volontà, come il velo del suo cappello trattenuto da un cordoncino, palpita a tutti i venti. C'è sempre qualche desiderio che trascina, qualche convenienza che trattiene. Guardate questa meraviglia di prosa. Anzitutto questo maschio che sarebbe stato forte e bruno, forte e bruno, perché forte, il maschio deve essere forte, un maschio debole non ha senso, il maschio è fatto per essere forte, no? E bruno perché dà ancora più l'idea di di una mascolinità, una virilità. Sarebbe stato forte e bruno questo maschio, e capite che in questo momento Flaubert, come in molti luoghi fa, sostituisce il pensiero di Emma alla sua voce. Quindi è come se Emma stessa parlasse e raccontasse come vuole il figlio, forte e bruno. Si sarebbe chiamato George. Ecco, qui naturalmente ci vuole da parte vostra molta sottigliezza per capire le stupidità della cosa. Perché George? George, no, ma cerchiamo di vedere che cosa è il nome Giorgio, a che cosa è legato. Mi ricordo a buon'anima di mia suocera, diceva che chi si chiama Giorgio è un cretino, era molto impreciso, però io in effetti nella vita mi ricordo di tutti i Giorgi cretini. Qui non c'è nessun Giorgio, si fa che c'è lui fra voi, si chiama Giorgio. Ma perché il Giorgio fa pensare, dovete pensare anche questo, che quando uno scrittore scrive, un artista scrive, non è che va a cercare cose molto sottili, perché quello che gli importa è semplicemente dare una certa idea. Allora Giorgio, che cosa vi fa venire in mente? Giorgio era un turco di origine, fu un martire cristiano, visse sotto Diocleziano, quindi siamo alla fine del terzo secolo d.C., ebbe dei tormenti spaventosi, lo tagliarono in due, in tre, in quattro, in cinque, eccetera, eccetera, e fu noto nella leggenda per avere sconfitto il drago. Questo drago era un drago che puzzava dalla bocca in un modo spaventoso, ammazzava, no? Era una cosa un po' vergognante, se vogliamo. Comunque, San Giorgio e il drago è un topos della letteratura e dell'iconografia. Devo prendere tutti? È una vita melanconica, triste. C'è qualcosa che non va? La posso aiutare, soccorrere? No, è così. Poi quando mi aiuti le cose della vita? Certo, gli momenti non mi piacciono. Dunque, cosa stanno parlando? Anche le sue condizioni psiche e fisiche. Stavamo parlando di San Giorgio e il drago. Allora capite, ci vuole uno che uccida il drago, uccida il drago, e poi dice che di questo uomo è libero. Ecco, ora voi sapete qui tutte le donne, giustamente, per le condizioni storiche in cui sono vissute, hanno visto l'uomo più libero, che l'uomo sia più libero, che le donne sono più limitate, le donne hanno più doveri. Oggi come oggi c'è il lavoro della casa, il lavoro che la donna fa quando lo trova, poi c'è due, il lavoro della casa e dentro, avevamo parlato già di questo argomento, sì. C'è il tremendo lavoro di piacere al marito, che non ha un reciproco, il marito di piacere alla moglie, no? Quindi insomma la donna è sempre stata torchiata obiettivamente moltissimo, invece sarebbe stato libero di viaggiare, di mordere le felicità più lontane. Guardate la finezza di questo verbo mordere, non gustare, ma mordere, perché quando tu la felicità l'aspiri molto, ma ti viene sottratta, quando la felicità ti arriva all'altezza della bocca, non è che la mangi, la mordi. Sentite la rabbia di Madame Bovary mentre dice mordere le felicità più lontane, Lei invece ha le mollezze della carne, cioè nella convinzione femminile è che solo la donna sia soggetta ai desideri sessuali, l'uomo no, perché in realtà l'uomo fa le cose sbrigativamente, invece lei povera creatura che da una parte ha le mollezze della carne e quindi sogna le deliquescenze dei sensi, ma dall'altra parte, come vedremo, basta che si faccia vedere in un posto piccolo, fuori, con un uomo che non sia il fidanzato o il marito, e immediatamente la gente comincia, anche oggi insomma, comincia a chiacchierare, no? si dice sempre con un senso di ammirazione, non so se questa espressione è giunta a voi o ancora, ma quando c'è un uomo con varie donne intorno si dice beato fra le donne, l'avete sentita? Dica che l'ha sentita, si arrabbia, si arrabbia. Si dice beato fra le donne, no? Si potrebbe dire l'opposto, beata fra gli uomini, meglio, perché c'è una sensazione, no? Una donna beata fra gli uomini sembra un parmigiote. Perché beato fra le donne sembra dei fatti storico-antropologici più interessanti della storia dei due sessi. E la volontà palpita, cioè la donna poi dice perché io cedo, questo è il punto, perché io cedo? Io cedo perché sono fatta per cedere, e naturalmente anche una grossa ipocrisia, insomma, no? Ecco, mi ricordo un libro, Il cuore arido, di Carlo Cassola, che è stato uno scrittore italiano abbastanza noto, che lei alla fine soccombe a lui e dice aprì le gambe lasciando che la vita facesse quello che aveva stabilito. Lei fa queste congetture sul figlio maschio. Vengono quando nasce, non c'erano le ecografie, si sapeva il sesso, si vede che è una femmina. Si vede che è. E allora che cosa fa Madame Bovary? Cioè ha una reazione, non la guardate, cioè avete già vista, ma ha una reazione eccessiva. Cioè cosa fa? Cosa dice? Sviene. Sentite come tutto è forte. Perché sono così forti queste reazioni? Perché devono rimanere nel lettore, capite? Devono rimanere nel lettore. Sviene. Dopodiché rinviene, evidentemente, e prende atto del fatto che è una femmina. E allora che nome si dà a una femmina? Cioè, bisogna cercare di adattarsi alla situazione, no? Sta pensando al nome. E allora, qual è il paese, guardate bene ragazzi, qual è il paese dell'amore? Nel mondo, qual è il paese? Che fai? Per un francese, per noi magari, ma per un francese qual è? L'Italia è per tutto il mondo, è inglese, tedeschi, perché vivono in Italia? Perché? L'Italia è il posto in cui, ma perché i tedeschi vengono in Italia? Nessun motivo. E quindi vuole dare il nome di una donna italiana. E al femminile, il femminile in italiano, quale lettera? A. E allora lei, se potesse mettere la A e chiamare una figlia solo A, lo farebbe. Quindi guardate i nomi che, del cazzo che scelgo: Clara, Luisa, Amanda, Atalà, no? Però siccome ha la testa scombiccherata, specie di fregola della mente decide anche Galsuinda è un nome di sicotto, capito? Però Galsuinda è sempre polare, però ha un senso di stranezza. Dovete pensare che tutto questo è fatto da una donna con la rabbia addosso, no? Sarà femmina e deve essere una grossa così. Però anche Galsuinda, oppure sceglie Isotta, naturalmente per altri motivi, perché Isotta è la donna dell'amore, un Leucadia, eccetera. Quanto, adesso a questo punto sentite la fantastica battuta, Sharla che nome avrebbe voluto? Avrebbe voluto il nome di sua madre. Avrebbe voluto il nome di sua madre. Perché la fantasia del povero Charles è così limitata che al massimo poteva arrivare a concepire sua madre. Alla fine che nome scelgo? E ricordate che c'è stato un episodio importante nella vita di Emma, che è stata la festa, il ballo, la commessa, dove a un certo momento lei ricorda che c'è stata la padrona di casa, mi pare, che ha chiamato una ragazza con il nome Bert. Ora, francamente, Bert è un nome assai, ma Berta è un nome brutto, non è particolarmente femminile, no, Bert. E qui è la finezza di Robert. Ma il fatto che questo nome fosse toccato dalla luce riflessa del castello della Vaubyessard, nonché del famoso visconte, fa sì che Bert sia il nome alla fine. Certo. Quando nasce, inutile dire che la bambina viene messa a balia. È un po' l'uso del tempo, ma è anche il fatto che la madre non si sentiva molto pronta a essere madre, insomma, no? Per cui viene messa a balia in campagna, e noi intanto andiamo a vedere il passo successivo. Se voi girate 3-4 pagine, il capitolo si chiama così, il capitolo che abbiamo appena fatto si chiama Un figlio maschio, punto esclamativo, nasce una figlia. Se girate 3-4 pagine, più rapido lo dico, dovete trovare il capoverso La Bêtise bien autre chose à se dire. Chi è che l'ha trovato? Bene. Pagina 54. N'avait-il rien autre chose à se dire? Sono le opere che stanno parlando va bene? Allora, distoglie una figlia dall'adulterio, questo sì e no, più no che sì, perché in realtà il senso di oppressione nella donna infelice aumenta. Mo dice, non c'è più soltanto il marito, ma c'è anche un figlio. Sono oppressa, sono legata, digrigna dalla rabbia, è chiaro? E qui c'è on the spoon, sul cucchiaio, Leo. E compresso. Come vi ho detto, tutti gli adulteri di questo mondo, con poche eccezioni che riguardano gli esseri più così materiali, iniziano con la conversazione. Tutti gli adulteri iniziano con la conversazione, questo è per i vostri futuri adulteri. Ricordate sempre questa cosa e scrivetela questa da mente a capo del letto. Ricordatevi che tutte le conversazioni con cui voi tradirete ragazze, il vostro compagno, il vostro marito, iniziano con conversazioni che voi riterrete innocenti. E voi direte questa frase, ricordatelo bene, ma che male c'è? Ricordatevi questo, che male c'è? I due parlano, ma naturalmente senza sapere qual è il loro fine, perché gli adulteri migliori, come dire, cioè quelli poi più avvolgenti, sono quelli che nascono in questo clima di inconsapevolezza e quindi senza credere di fare assolutamente nulla di male, e quindi si parla del più e del meno. Ma la cosa importante quando due si stanno innamorando è parlare. Io già ho parlato l'altro giorno, vi accennavo, mi pare, della parabola dei rapporti coniugali, o comunque dei rapporti che cominciano con lunghe conversazioni. Adesso ci sono i telefonini, i mail, le cose di questo genere, e poi pian piano tutto questo si spegne. Vai a chiedere a tuo marito dove tanti mandarti una mail, e chi ti manderà? Sto cercando di incrementare il senso di un po' di lei, come si chiama? Sofia, ho capito Fia, ma Sofia è una cameratista, quando la dico io lei no. Perché sempre salti su, dunque, agli inizi però è un volersi raccontare tutto, come sapete, e la cosa incredibile è che così per tutti, quindi quando c'è stato il rapporto con Char, anche lì si raccontava prima. E poi Sharon è diventato marito, ecco perché bisogna sposarsi, per continuare a parlare con il proprio coniuge. Tieni al tuo coro, lo dico a lei perché invece mi sembra che sia un buon giro il matrimonio. tieni al tuo coniuge o al tuo, ci tieni e non sposare. Se lo sposi smetterai di parlare e passerai a un altro successivo. Non avevano nient'altro da dirsi, i loro occhi tuttavia erano pieni di una conversazione più seria, e mentre si sforzavano di trovare frasi banali sentivano lo stesso languore invaderli tutti e due. Era come un mormorio dell'anima, profondo, continuo, che dominava quello delle voci. Presi da stupore di questa nuova soavità, non pensavano neanche a raccontarsi le sensazioni o a scoprire la causa. Le felicità future, come le rive dei tropici, proiettavano sull'immensità che li precede le loro mollezze natali, una brezza profumata, e ci si assopisce in questo inebriamento, senza neppure preoccuparsi dell'orizzonte che non si vede. Imparare memorie per chi ama la letteratura e la scrittura, righe e frasi di questo genere. Si parla del più e del meno, la conoscete questa espressione, parlare del più e del meno? In francese si dice de la pluie et du beau temps, cioè si parla di meno. Ma se due sono legati da un'attrazione sessuale, riescono a far sentire il sesso anche parlando della pioggia, anche parlando del bel tempo. Il discorso si intorbida per volontà di entrambi andando a finire sempre lì. E così, al di là dei discorsi banali, il discorso era più serio e sentivano questo languore, un mormorio dell'anima, continuo. Ed era come se in questi casi, e sicuramente tutti avete fatto un'esperienza o la farete di questo genere, uno non veda ancora, attenzione bene a questo punto, non veda ancora dove andrà a finire tutto questo. Non lo sa. Cioè non è che ha pensato andremo a finire a letto assieme. No, assolutamente. Specialmente se uno è una persona contenuta, contenuosa, in quell'epoca, in quei tempi, una persona sposata da poco. Però da una sorta di distanza, da un orizzonte distante, è come se venissero degli effluvi, dei profumi di felicità. Tu non conosci ancora l'orizzonte verso il quale stai andando a velocità vertiginosa, camminando a passi lunghissimi, non lo conosci ancora. Però senti già il profumo di queste terre verso cui stai andando. Passiamo oltre uno, due, a questo si chiama, questo capitoletto, assopirsi nell'ebbrezza. Uno, due, tre, e arriviamo alla fine del capitolo 4, facilissimo da trovare, è il capoverso che comincia con canta e ma. Prima del capitolo 5. Siamo? Allora. La sera. Sentite? La sera si sì. Per innamorarsi bisogna incontrarsi. Terzo mandato. Esistono gli amori a distanza? Non si può fare. Nessuno? Nessuno. Se sono molto collaudati, tutto bene. L'amore ha bisogno di vicinanza. Senza dubbio. Il fidanzato sta a Firenze, uno e l'altra sta a Venezia, e via. Uno sta a Grotta Ferrata, però non si muove da Grotta Ferrata. marino, quindi insomma, con un minimo di sforzo, finisce. Uno va a fare il militare. Non c'è dubbio. Non bisogna avere illusioni. La cosa importante nel trattare questi temi è non avere illusioni. Ma perché è tranquilla? È tranquilla perché pensa, io sono, mi comporto bene. Se questo fosse amore, succederebbero fin molti nella mia esistenza. Ma non succede. Vedo sempre Leon e parlo con lui di letteratura. Ricordate, la letteratura è la ruffiana più spaventosa che si possa immaginare. Io ho visto su Baudelaire, Rimbaud, avvenire i conti più furibondi, partendo da... Si vedono in quattro. Lei, Charles, Homais e Leon. Il povero Charles gioca a domino. Con me, avete presente il domino mettendo le tessere su di me, oppure con variazioni giocano a carte. Dopo un po' è sera, immaginate una piccola provincia, e i due bevendo, sberacchiando, cazzeggiando un po', si addormenta. Ma gli altri due non dormono. La caratteristica di chi si sta innamorando è che il sonno gli passa. Ricordatevi quello che vi dico, il sonno gli passa. La caratteristica di chi, quando si comincia a fare uno sbadiglio, il nome, io ricordo perfettamente, insomma, di essere stato sveglio alle 4:30 del mattino, ma con un'adrenalina pazzesca in corpo. I due adrenalinici continuano a parlare e, siccome me si è addormentato e si è addormentato Charles, parlano a bassa voce, non per non disturbarli, ma perché non si sentano le loro conversazioni. Innocenti in apparenza, ma in realtà noi sappiamo di quali umori erano fatti. E quindi ecco il paragrafo che adesso consideriamo. Dice: quanto a Emma, sentite questo, e adesso vi faccio anche un'osservazione, quanto a Emma non si interrogò per sapere se lo amava. L'amore, ella credeva, doveva arrivare tutto a un tratto, con grandi scoppi e folgori, uragani dei cieli che cadono sulla vita, la sconvolgono, strappano le volontà come foglie e trascinano nell'abisso il cuore intero. Ella non sapeva che sulla terrazza delle case la pioggia crea dei laghi quando le grondaie sono intasate, e sarebbe rimasta in piena sicurezza con se stessa quando scoprì improvvisamente una crepa nel libro. Paragone meraviglioso, paragone meraviglioso. Questo mi serve per dire una cosa molto importante. Cioè, uno pensa che l'amore venga fuori con un fulmine tuono, non è così. L'amore è un verme, è un serpente che ti si mette dentro, eh? E tu non ti rendi conto dei danni che ha provocato finché non ci sono questi danni. Così come in una terrazza, provate un po', se avete una terrazza, avrete questa esperienza casalinga, se una grondaia sul terrazzo si intasa, l'acqua cosa fa? Provate un po' quando in casa vostra, se si apre un bagno di sopra, si lascia l'acqua aperta, l'acqua scende, dopo un po' sul soffitto viene una macchia. E se non fate niente, viene fuori una crepa, capisci? Perché l'acqua non riesce a defluire, evidentemente. È bella questa immagine, l'acqua non riesce a defluire. Quando tu carichi di amore un colloquio, senza che questo colloquio, senza che tu abbia la possibilità di svuotarti di questa nube, l'amore a un certo punto rode le fondamenta della tua casa, rode e corrode. E quando lei si rende conto da una crepa del muro che è capitato qualcosa, ormai non si può più fare nulla. Vi ho detto che questa è una comparazione, una similitudine, no? In retorica noi distinguiamo due tipi di accostamenti di immagine. Una è la similitudine, che è introdotta dalla congiunzione al verbio come, no? Come una grondaia intasata, eccetera, così, è chiaro? Poi c'è la metafora, che tutti conoscete. Nella metafora il come è abolito. Facciamo un esempio che vi deve essere chiarissimo. Se io dico Achille è veloce come un fulmine, questa è una comparazione. Va bene? Chiarissimo, la capiscono tutti. Perché tutti, se tu metti il come, capiscono che c'è due entità, Achille da una parte e il fulmine dall'altra, e Achille è veloce come il fulmine. Vediamo che tu voglia fare una metafora, fai saltare il come. Achille è un fulmine. La metafora non la capiscono tutti, meglio, la capiscono le persone che sono, in questo caso, minimamente acculturate. Ma se viene un marziano qua sulla terra e tu gli dici Achille, volendo che abbia informato il marziano di chi è Achille, Achille è veloce come un fulmine, il marziano può capire, però sempre il marziano sente dire Achille è un fulmine, non capisce, perché dice no, Achille non è un fulmine, Achille è un uomo, non è un fulmine. Che cosa fa Flaubert? Usa quasi nessun, se fate caso, o nessuna possiamo dire, almeno in questa fase del suo itinerario realistico, quindi stiamo parlando della Bovary, del primo realismo, quasi nessuna metafora. Perché la metafora è, come dire, il segno di un'intrusione dello scrittore che scrive. Se io dico Achille è un fulmine, io so che c'è una testa dietro pensante di scrittore che ha creato questa connessione. Lui, sapete, non vuol far vedere lo scrittore, quindi non dice Achille è un fulmine, ma Achille è come un fulmine. Niente metafore, ma comparazioni. E questa è una comparazione a dimostrazione del discorso appunto che vi ho appena fatto. Voltiamo e stiamo nel capitolo 8, che ha il titolo di questo, una crepa nel muro. Nel capitolo 5, la pagina successiva, il capoverso nostro è Madame Bovary, le soir n'a la pas chez voisins. Ci siamo? Bene. Hanno fatto una gita fuori. La compagine è questa. Léon, Omé. Vi ricorderete che Léon abita nella casa di Omé, lo sapete, nella stanza della casa di Omé. I bambini di Omé. Alla fine si torna, ma quando ci si innamora, un elemento fondamentale è mettere involontariamente vicino la persona che ci occupa, che ci obbliga, quella ufficiale, il nostro fidanzato, la persona di cui stiamo innamorando. Allora vediamo la differenza tra i due. Vediamo che uno è rozzo, essere incatenati a questa persona rozza e dell'altro vediamo tutte le qualità possibili. Sono stati fuori e al solito la sera stanno insieme, ma questa volta Madame Bovary che ha tolto i pensieri per la testa, perché è logorante, faticoso star vicino a questo giovanotto più giovane di lei, ricordatevi bene, che ama, ma non può concederselo, non può concederselo. Madame Bovary la sera non andò dai suoi vicini, cioè Omé e Leone. E quando Charles fu andato via, quando rimase sola, il parallelo ricominciò nella nettezza di una sensazione quasi immediata e con quell'allungamento di prospettiva che il ricordo dà agli oggetti. Guardando, attenzione che appare il fuoco. Ricordate che vento, fuoco, aria, acqua. Quando c'è fuoco vuol dire che si aprono i pensieri amorosi. Guardando dal suo letto il fuoco chiaro che bruciava nel caminetto, evidentemente, ella vedeva ancora come laggiù, durante la gita, Leon in piedi, che faceva piegare con la mano la sua bacchetta e teneva con l'altra a Talì, che succhiava tranquillamente un pezzettino di ghiaccio. Ella lo trovava attraente, non poteva distaccarsi. Si ricordò alcuni suoi altri atteggiamenti in quella giornata, le frasi che aveva detto, il suono della sua voce, tutta la sua persona, e ripeteva sporgendo le labbra come per un bacio. Sì, attraente, attraente. Forse non ama? Si domandò. E chi dunque? Ma sono io. Tutte le prove al tempo stesso apparvero, il suo cuore ebbe un balzo. La fiamma del caminetto faceva tremare al soffitto una chiarità gioiosa. Lei si voltò sulla schiena, stiando le braccia. E allora cominciò l'eterno lamento. Oh, se il cielo avesse voluto. Perché non l'ha voluto? Ma chi impediva? Quando Charles a mezzanotte tornò in camera, ella ebbe l'aria di svegliarsi e siccome lui fece del rumore spogliandosi, si lamentò di soffrire di emicrania e poi domandò con nonchalance che cosa avevano fatto nella serata. Il signor Leon, Charles disse, è risalito presto in camera. Ella non poté impedirsi di sorridere e si addormentò, l'anima piena di un incanto nuovo. Un innamorato in genere ha bisogno, oltre che incontrare la persona, un innamorato, di stare con se stesso. Ha bisogno di concentrarsi, ha bisogno di poter ripensare a lui o a lei per conto suo. Quindi lei va a letto presto e si rompe una consuetudine, che è quella che lui stia giù e che lei stia giù con Omé, Leon, no? Si rompe questa consuetudine. E andando a letto presto è come se il fuoco del caminetto, il fuoco davanti, la facesse sentire che qualcosa si sta levando. Questa natura che partecipa alla storia dei sentimenti, ricorderete nell'ombrellino, la scena dell'ombrellino, quando c'era l'acqua in disgelo, quando c'era la neve che si scioglieva, l'acqua che cadeva. Avete visto già altri momenti in cui invece c'è la fiamma nella cucina, recentemente nella scena della cucina, e qui c'è questa fiamma davanti e a questo punto lei mima con il corpo, perché quando siamo innamorati e non possiamo mostrarlo, quale corpo abbiamo a cui poter comunicare che siamo innamorati. L'unico corpo è il nostro. E allora, con quest'unico corpo di cui disponiamo, lei mima un bacio, e poi si chiede: ma quest'uomo per caso è innamorato? E non è facile dire è innamorato di me. È difficile perché uno non osa dirlo, perché non osi creare una connessione, ma a volte la connessione si crea poi fulmine. Sì, ma è di te, a volte questo nella vita capita che ce lo dica un altro, una stante, un testimone, un amico, ma guarda che è innamorato di te, no? Ma nella fattispecie lei non ha nessuno, non ha altri che se stessa, e a questo punto questo bellissimo gesto che si stiracchia sulla schiena è un gesto di una donna soddisfatta. Non so se qualcuno di voi ha visto il film, qualcuno l'avrà visto sicuramente, il film Via col vento, vi ricordate? Chi è che l'ha visto Via col vento? Qualcuno l'avrà visto. Quando lei, la protagonista, Rossella O'Hara, ha fatto l'amore, si stira sul letto, no? Si stira come per esprimere, come un gatto al sole, la sua soddisfazione. Il problema è sapere se la sua convinzione sia fondata o no. Erano sempre insieme. Quando Charles a mezzanotte torna su, dice: cosa avete fatto stasera? E Charles, naturalmente gonzo com'è, nulla sa, nulla capisce, dice: il signor Leon se n'è andato prima. E certo, perché non c'era lei. Lei vede in questo una riprova di quello che aveva subodorato. Ma ascoltate bene, è proprio quando uno ha una consapevolezza di essere innamorato che la tortura del legame che tu hai già, anche tra fidanzati, ma qui nella fattispecie siamo con una persona sposata, che è più terribile, perché ha detto che non puoi fare niente. Ricordate questo nome importante, l'heureux, come heureux, felice, con la L davanti. L'heureux è un mercante di stoffe, avrà un'importanza decisiva, perché è un usuraio. Capite? Vende stoffe, e una donna che si innamora e vuol vestirsi bene, improvvisamente si rende conto che ha pochi vestiti, che li hanno visti tutti, che se avesse soldi quel che farebbe. E quando l'eroe la tenta, avendo capito il suo pollo, e le dice: compri signore questi vestiti, lei dice no. E loro, come tutti i veri farabutti usurai, cosa dice? Non dovete pagare adesso, non voglio soldi, dopo, in futuro. Sapete, con questi marchingegni verbali si riescono a distruggere le persone. Dopo pagherete, in futuro, non voglio soldi. Ricordatevi, quando qualcuno vi dice non voglio soldi è il momento dell'inizio della fine. Ma lei resiste. Quando uno si dà un piacere, la rabbia viene, però il piacere mancato, come vi ho detto in un'altra occasione, bisognerebbe prepararsi una cioccolata, perché ogni piacere mancato, ricordo questa è una frase, per ogni piacere mancato bisogna prepararsi una cioccolata. Perché il rosichio che se no si ha dentro è tale che lo si fa scontare a marito, moglie, genitori, figli. Capite? Non hai potuto avere qualcosa, trovatene un'altra, se no il piacere. bile. E dove stai il mio converso? Ti invade la bile e aspettate qua. Lei decide, visto che si è spinta troppo avanti ormai e visto che è bloccata, legata, sposata, sarà impeccabile. E quando qualcuno che ha un desiderio nasconde il desiderio, lo soffoca, lo schiaccia e decide di essere impeccabile, naturalmente si crea dentro una condizione di bomba che esploderà. Leo viene e le dice: non vi occupate più di musica? E lei con ira: come di musica? Ma io ho da occuparmi di mio marito, ho da occuparmi delle cose della casa. Dice del marito che è un bravo uomo. Ricordate che quando una donna dice del compagno che è un bravo uomo, una mia allieva, poi diventata mia amica, diceva: le donne non sposano bravi figli ma figli di puttana. E c'era in fondo, al di là della battuta, c'era qualcosa di vero in questo. Non si innamorano non dei bravi figli ma dei figli di puttana, eh? E quindi la rabbia, la rode. E leggiamo, prima di lasciarci, questo capitoletto che trovate dunque subito dopo, quante pagine adesso le faccio, eh? Dunque, il capitolo si chiama Charmant, il capitolo 26 che abbiamo visto. Charmant, una pagina, due pagine, tre. Dopo tre pagine o qualcosa del genere, dovreste trovare il capoverso: Mais elle était pleine de convoitise, de rage, de haine. Chi l'ha trovato? Vedi, ragazzi, come si chiama lei? Arianna, lei ha una prontezza mentale straordinaria. Fa qualche sport? No, pensavo che non fosse. Ha una proiezione 3x2? Senti, lo sei? Non tutti hanno questa velocità. Allora, ma lei era a piedi, questa donna tutta d'un pezzo, eh? Quante donne si conoscono, avete una vita davanti, capite? In tutte queste cose vivrete, sarete innamorati, avrete figli, mariti, suocere, madri, padri, sarà uno zoo persecutorio che avrete incontro, uno zoo persecutorio. Non vai a letto con tua moglie, non vai a letto con tua moglie, tua moglie ti tradirà. Non sei disponibile a tuo marito? Vedrai quel che ti succede. E allora uno si riempie di rabbia. Ma lei era piena di cupidigie, di rabbia, di odio. Quel vestito dalle pieghe dritte nascondeva un cuore sconvolto, e quelle labbra così pudiche non ne raccontavano il tormento. Lei era innamorata di Leon e cercava la solitudine al fine di poter più tranquillamente dilettarsi nell'immagine di lui. La vista della sua persona turbava la volontà, questa è una cosa fantastica, la volontà di questa meditazione. Emma palpitava dal rumore dei suoi passi, ma poi, in sua presenza, l'emozione scompariva e non gli restava in seguito che un immenso stupore che si concludeva in tristezza. Leon non sapeva, quando usciva da casa sua disperato, Rousseau e inventò tutta una storia per avere il pretesto di visitare camera sua. La moglie del farmacista le sembrava felice di dormire sotto lo stesso tetto e i suoi pensieri continuamente s'abbattevano su quella casa come i piccioni del Leon d'Or che venivano a immergersi nelle grondaie con le loro zampette rosa, le ali bianche. Ma più Emma si accorgeva del suo amore, più lo rifiutava, perché non apparisse e per diminuirlo avrebbe voluto che Leon se ne accorgesse e immaginava dei casi, delle catastrofi che potessero facilitarla. Quel che la tratteneva probabilmente era la pigrizia o lo spavento e anche il pudore, e pensava che l'avesse respinto forse troppo lontano e che non ci fosse più possibilità, che tutto fosse perduto. Poi l'orgoglio, la gioia di potersi dire sono virtuosa e di guardarsi nello specchio prendendo pose rassegnate la consolava un po' del sacrificio che credeva di fare. Mi pare che questi tre sostantivi iniziali siano emblematici: la cupidigia, la rabbia e l'odio. Il vestito era dritto, il vestito era, scusate il ritardo, ma era ancora nel mezzo, il vestito aveva delle pieghe dritte, ma queste pieghe dritte nascondevano naturalmente questi fermenti, e quindi è il caso di riconoscerlo ormai a se stessa. Lei era innamorata di Leon. Ci troviamo qui nel convento, titolo del capitolo era una canzone di quando ero ragazzo, mi sono innamorata di te. Non so se qualcuno l'ha mai sentita questa canzone, la cantava uno che si chiamava Luigi Tecco. Quindi il titolo è Mi sono innamorata di te con punto esclamativo.